Radio 24 Reportage. Italia-Germania 4-3, la partita degli italiani, di Dario Ricci, regia di Andrea Roccabella. Ascoltatori italiani, buonasera, in diretta via satellite dal Messico. La nazionale italiana ha conquistato il diritto di disputare allo stadio Azteca la semifinale per il campionato del mondo. È già schierata al centro del campo, udite l'inno nazionale tedesco. Tra poco avrà inizio Italia-Germania. 17 giugno 1970, stadio Azteca di Città del Messico. È Italia-Germania 4-3, la partita del secolo e al tempo stesso molto più di una partita. È entrato in quell'anno il nostro paese col trauma della strage di Piazza Fontana e il pallone d'oro a Gianni Rivera sotto il braccio e sull'orlo dell'abisso degli anni di piombo. E proprio la Germania, sfregiata dal muro di Berlino, ma già allora cuore economico d'Europa, è la destinazione di tanti nostri migranti, soprattutto da quel sud che proprio dal calcio e dallo scudetto del Cagliari di Gigi Riva ha ricevuto un insperato impulso d'orgoglio. Eccola allora, Italia-Germania 4-3, che da partita diventa festa di popolo, leggenda, mito, fotografia di un paese come era allora, come è oggi e come sarà magari domani. E allora l'abbiamo chiesto a loro di raccontarcela, agli italiani, sì, a chi c'era quella sera inchiodato davanti alla TV, a chi quella partita, che è uno stato dell'anima, se l'è sentita raccontare e a chi, un giorno, la racconterà. La formazione annunciata dalla squadra italiana è quella ormai stabilita come formazione base all'inizio delle partite messicane, e cioè Albertosi, Burnic e Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti, Riva. I tedeschi hanno annunciato la seguente: in porta Maier, numero 1, la linea dei difensori è formata da Fuchs, numero 7, Paschke, numero 15, Schnellinger, numero 3, Schutz, numero 5. A centrocampo giocano Beckenbauer, numero 4, Zeller, numero 9, Oberatz, numero 12. La linea delle punte è formata da Grabowski alla destra, numero 20, Müller, numero 13, capocannoniere del torneo con 8 gol, e Löhr alla sinistra, numero 17. La partita è diretta dal signor Yamasaki. Massimo Fossati, perito assicurativo di Milano, quel 17 giugno del 1970 era nato da appena 5 settimane, ma a suo modo l'ha vista la partita del secolo. Ho il ricordo di mio padre che ha approfittato delle mie coliche o pappe notturne per vedere i mondiali del 70, e questa storica partita mi dice sempre: io Italia-Germania 4-3, tutti i gol supplementari l'ho vista con te in braccio cullandoti per farti dormire. Rimette il gioco di Burnic, il passaggio a De Sisti, Boninsegna, Boninsegna, ancora Boninsegna, tiro, rete, Boninsegna, Boninsegna ha segnato, lo splendido tiro di Boninsegna di sinistro dal limite dell'area. Boninsegna, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0. Roberto Roselli, imprenditore nel campo della moda, aveva una manciata d'anni. Quella partita entrò direttamente nei suoi sogni. Era a casa, ovviamente, stavo riposando o dormendo proprio, e fui svegliato dalle urla in casa di mio padre, che con mio zio si erano ribaltati dal divano per il gol di Rivera, perché poi mio padre era milanista, quindi finire la partita con un gol di Rivera dopo la papera sul primo palo fu una cosa incredibile. Il primo tempo termina quindi in vantaggio dell'Italia per 1-0 con il gol segnato da Boninsegna all'ottavo minuto. Passata in vantaggio all'ottavo minuto con il gran tiro di sinistro del nostro centravanti, l'Italia ha badato a contrastare il gioco dei tedeschi. Vincenzo Positano è un piccolo imprenditore in pensione. Italia-Germania 4-3 sconvolse la sua vita di studente modello. Stavo a Bari e frequentavo l'istituto tecnico professionale Panetti. Succede che io il giorno dopo dovevo fare una verifica di impianti, per cui avevo tutta la tavola del tinello pieno di libri e di appunti, perché dovevo preparare questa verifica il giorno dopo. Assistiamo alla partita, ovviamente io e mio papà, e non c'era soltanto Italia-Germania, ma c'era Milan-Inter, un derby in casa, perché io di fede milanista, mio papà di fede interista. Ovviamente la questione si scatenò quando il nostro CT decise di effettuare la staffetta Mazzola-Rivera. Ci sono state delle sostituzioni, sono soltanto 10 uomini, ed ecco che entra Rivera in campo Rivera ha sostituito Mazzola. Nel secondo tempo quindi vediamo Rivera con il numero 14 al posto di Mazzola, numero 15. Giovanni Mauro, antennista, aveva 20 anni. È indimenticabile perché ero a casa di un mio amico, io e lui, tifavamo Italia in una maniera incredibile, poi col susseguirsi dei gol, guarda. Inoltre io sono milanista e quando Schnelling era segnato quel gol avrei fulminato. Solo che vabbè, insomma, dai, cosa vuoi farsi? Comunque è stata un'esperienza indimenticabile, veramente. Ogni gol che segnavano l'Italia saltavamo sulle poltrone. Ha rimesso in gioco di Held. Grabowski. Grabowski riesce a effettuare il cross. Ed è il pareggio di Schnellinger a due minuti oltre il tempo regolamentare. Un recupero clamoroso concesso dall'arbitro Yamazaki. Ed ecco finalmente il fischio di questo Yamazaki. 3 minuti di recupero ha dato 1-1 al termine dei tempi regolamentari. Italia e Germania devono disputare i tempi supplementari. I supplementari sottraggono quella partita alla cronaca e la trascendono nel mito. In Sicilia, incollato al televisore, c'è Saverio Amodeo, oggi barista a Milano. L'ho guardata al mio paese, che si chiama Alcamo, in provincia di Trapani, e lavoravo in questo albergo, albergo centrale. Il ricordo più bello di quella partita è stato vincere contro la Germania. Era la partita, non in sé. Era vincere contro la Germania, perché visto che io avevo mio papà e mio fratello che erano emigranti in Germania, e quando ritornavano non è che mi raccontavano tante cose belle, perché vivevano nei container e poi c'era anche il fattore italiani non visti molto bene, perché erano lavoratori normali. E allora vincere contro la Germania per me è stato come liberarmi di un qualcosa di speciale. Ecco, sono andato in piazza proprio a festeggiare. Non dico che ero ubriaco, ma quasi. Il tiro dalla panierina di Liputa. Ha toccato Zeller. Müller ha segnato. La Germania in vantaggio. Calcio di punizione in favore della squadra italiana. È sulla palla Rivera. Passaggio arriva. Burgnic. Pareggio di Burgnic. Pareggio Burgnic. 2-2. Mario e Aldina, quel 17 giugno del 1970, erano sposati da appena 2 anni. Lui resta a casa davanti alla TV. Lei ha la notizia della vittoria in ospedale durante il suo turno notturno da infermiera. Eravamo a casa a vederci la bella partita qui a Milano. Ho goduto, prima ho sofferto di la verità per come si stava mettendo la partita, poi il mitico Gianni ha risolto tutto. Me lo ricordo perché ci ha telefonato il reparto, ha detto abbiamo vinto, perché lui era a casa, che era a casa con la figlia. Quindi ecco, io mi ricordo questo particolare qua, che ci ha telefonato il portiere proprio dicendo tranquilli, abbiamo vinto. Rivera la palla, servito da Menghini sulla sinistra. Riva, tiro ed è gol. Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. Sta per scadere il primo tempo supplementare, 3-2, ha segnato Riva. Ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi. Colpo di testa di Zeller. E la palla è in fondo alla porta. Ha pareggiato Zeller, 3-3. Dopo il colpo di testa di Zeller ha toccato anche Müller, infatti vediamo che la diapositiva assegna il gol a Müller. Quel 3-3 di Müller scatena una guerra civile nella casa di Vincenzo Positano a Bari. Rivera si manifestò quando Müller fece il gol e lui sul primo palo, si scalzò facendo entrare la palla in rete. Mio papà si scatenò contro di me in una maniera indecente, facendo volare tutti quanti i libri, gli appunti che avevo su questa chiamiamo pseudo scrivania, continuò ad imprecare contro di me, contro la mia squadra ovviamente. La questione si risolve per nostra fortuna sul 4-3, uscimmo sul balcone, gridammo a non più non posso insieme a tutto il vicinato, perché chiaramente è stata una grande partita, una grande vittoria. Decisa da mia lista Rivera, perché fu il calmante per mio papà, come se avesse bevuto una tazza di camomilla, si acquetò e chiaramente festeggiamo in una maniera indecente sul balcone, come mai abbiamo fatto insieme. La drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato Schutz, passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Un'emozione che spinge l'Italia nelle strade a notte fonda, un'emozione talmente grande che non tutti, neppure a distanza di anni, riusciranno a raccontarla. La testimonianza di Daniele Liscia, agente immobiliare che allora aveva appena 4 anni. Mio papà non mi ha raccontato quella partita, perché mio papà era un grande sportivo, un grande calciofilo e quindi l'ha vissuta talmente intensamente quella partita che forse è stato proprio quello che non ha avuto il coraggio, la sensibilità di trasferire quell'emozione che quella partita gli ha dato al suo figlio, perché papà era troppo intima quella partita per lui. Boninsegna, Domenghini, scatta ancora Domenghini con l'orgoglio di questa splendida semifinale mondiale. Cross di Domenghini al centro dell'area, lungo per tutti e se ne impossessa Schutz. 35 secondi ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di 2 ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare: l'Italia è in finale della Coppa Rimè. Ma in tanti invece quella partita la raccontarono allora, come la raccontano oggi e la racconteranno domani ai loro figli, ad altri italiani. Domenico Rinaldi fa il capotreno. Italia-Germania 4-3 gli era raccontata il papà e lui da papà l'ha raccontata ad Alessandro, il figlio che ha 8 anni. È una bella emozione perché era una partita importante per l'Italia. L'idea che sarai tu un po' a raccontarla, che sensazione ti dà? Una sensazione di ricordo perché mi ricorda mio papà che mi raccontava questa grande partita. Speriamo, ti auguro di poter vivere presto una tua Italia-Germania, con un'Italia vittoriosa magari in un mondiale o in un campionato europeo. Sì, sì, dai, speriamo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.